Allora, torniamo a umano e postumano. Allora, ci spiega Foucault come la nozione di umano sia la nozione di uomo, nel senso di oggetto di una indagine specifica, descrivibile di una indagine specifica che porti a una descrizione di questo oggetto uomo in termini positivi, sia una, non vorrei usare il termine conquista perché sembra che si tratti di una cosa positiva, sia un evento storico. E come quindi non sia possibile fare riferimento a una nozione di uomo, tra virgolette, di essere umano, esistente indipendentemente dalle condizioni, da particolari condizioni storiche precise. Ora, questa questione la ritroviamo praticamente in tutte le scienze umane. La storia dell'Occidente, la storia della cultura dell'Occidente, che cominciò ad acquisire una autocoscienza di essere tale soltanto all'inizio dell'età moderna, quindi fra il XVI e il XVIII secolo, questa, come dire, cultura ha comunque rapidamente costruito una sua genealogia, E questa genealogia, grosso modo, la possiamo individuare così. Allora, attenzione, questo non significa che la successione di periodi che vi metto adesso sulla lavagna abbia un carattere oggettivo, né dal punto di vista mondiale, che sarebbe assurdo, perché da questa linea che faremo adesso stanno fuori la grande maggioranza delle culture umane esistite su questo pianeta. E stanno fuori alcune tradizioni di civiltà che si sono formate indipendentemente da un punto di vista geografico, storico, culturale epistemologico, cioè di costruzione di condizioni della conoscenza, quindi non ha senso, ma come dire, l'Occidente in qualche modo si ritiene erede della cultura dell'antichità classica, che significa, come dire, la successione Grecia, ellenismo, Roma, dove il contributo di Roma alla elaborazione del sistema delle categorie culturali è stato molto basso e si concentra quasi esclusivamente nella costruzione del diritto, che è diciamo, la sfera della cultura nella quale Roma può vantare una insomma, tradizione, perché per tutto il resto né per la letteratura né per la filosofia Roma può, la cultura romana ha particolari, quindi diciamo che la gran parte dei fondamenti della cultura greca, della cultura occidentale di questo periodo si concentra nella Grecia cosiddetta classica, diciamo dal VII al IV secolo a.C., l'ellenismo copre, diciamo, dal III al II secolo a.C., dal I secolo a.C., diciamo fino al IV d.C., c'è in qualche maniera una sorta di egemonia romana che non è altro, l'espansione di Roma nel Mediterraneo non è altro che l'ultimo strumento di diffusione della cultura ellenistica, ma in realtà è la cultura, è quella ellenistica che si diffonde. Diciamo, l'ellenismo è la cultura greca classica contaminata con una serie di altre aree a seguito della costruzione dell'effimero impero di Alessandro Magno nel III secolo a.C. La più importante di queste ibridazioni del pensiero greco con altre tradizioni culturali, la conoscete tutti, si chiama cristianesimo. E obiettivamente il cristianesimo all'interno, nella fase calante, nella fase finale dell'era dell'antichità classica, il cristianesimo rappresenta fondamentalmente l'ibridazione di un filone particolare della cultura ellenistica, cioè quello neoplatonico, con la cultura di un piccolo popolo di ex pastori da pochissimo passati all'agricoltura, pochissimo vuol dire un po' più tardi rispetto ai grandi imperi della zona, cioè quello di Polo egiziano e quello assiro-libanese, Egitto e Iraq, tanto per capirci, e poi dopo l'Iraq, dopo l'impero persiano, che è il popolo ebraico, popolo insignificante sul piano geopolitico e piuttosto bizzarro sul piano culturale, però, come dire, portatore di questa curiosa cultura, il cui apporto principale, diciamo anche la cui correzione principale alla cultura neoplatonica, che è quella che informa la gran parte, poi vediamo cosa, insomma, però diciamo l'apporto più importante del pensiero ebraico si situa sul terreno della concezione del tempo. Mentre nella cultura greca, come in qualunque cultura, anche in culture molto lontane dalla nostra, la concezione del tempo è sempre stata circolare e ciclica, l'idea di fondo era che la successione degli eventi non avesse né un inizio né una fine, se non da un punto di vista un po' convenzionale, cioè diciamo se la cultura fra le culture indo-europee, quella nella quale questa idea è rimasta più chiara è la cultura indiana, la cultura dell'India. Che è quella che più di ogni altra cultura indoeuropea ha mantenuto non soltanto l'idea di una morte e di una rinascita ciclica dell'universo, ma le ha addirittura specificate con i cosiddetti Kali Yuga e con tutte queste robe qua. In altre culture come quella germanica, scandinava o come quella greca, la cosa non è rimasta in modo così chiaro, però ci sono tracce di questa stessa cosa, cioè sia nella mitologia greca che ancora più chiaramente in quella, diciamo, germanica, gli dèi prendono il potere a un certo punto, sia gli dèi olimpi della tradizione greca, sia gli dèi asi della tradizione scandinava e germanica, della mitologia scandinava e germanica, prendono il potere a un certo punto dopo delle lotte intestine tra gruppi diversi di dei. C'è un ciclo in cui la civiltà o la cultura egemonizzata da questi gruppi di dei si sviluppa e poi c'è una fine che nella mitologia scandinava si chiama Ragnarök, in quella germanica è quello che si chiama dopo Wagner il crepuscolo degli dei, il Götterdämmerung, e anche in quella greca c'è, anche se non è descritta in modo chiaro, nel mito di Prometeo si fa spesso riferimento a un successore di Zeus, poi in realtà non viene mai descritto chi sia questo successore di Zeus, però c'è l'idea che anche Zeus, che ha preso il potere contro i titani e contro le generazioni di dei precedenti, ad un certo punto il suo potere finirà, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo configura in tutte queste culture una concezione ciclica e soprattutto non finalizzata del tempo. Il tempo non ha mai in una concezione ciclica una fine definitiva, un compimento definitivo, perché se c'è un cataclisma, ma poi da questo cataclisma tutto rinasce in forme più o meno nuove, vuol dire che il tempo non ha un vero inizio, non ha una vera fine, ovvero sia, se il tempo è un cerchio, certo, io posso stabilire arbitrariamente un punto in un cerchio e dire questo è l'inizio e quando faccio tutto il giro questo inizio coincide con la fine, ma potevo prendere questo, quell'altro, quindi in una concezione circolare del tempo il tempo non ha mai un vero compimento e quindi non c'è nelle culture del tempo circolare, non c'è alcuna concezione di una finalizzazione, non ci sono finalità nella storia. Detto in termini un po' più tecnici, nell'antichità classica non è possibile, non troverete nell'antichità classica alcuna filosofia della storia. Non troverete mai alcuna concezione che vi dica la storia ha questa struttura, è fatto così, c'è questo fine, parte di qui e arriverà là. Chi aveva invece questa, diciamo, concezione era questo insieme di tribù semitiche, piuttosto litigiosette tra loro, ma soprattutto con i loro vicini, costantemente in guerra con filistei, cananei, eccetera, eccetera, che 6 o 7 secoli prima di Cristo avevano avuto un effimero splendore con due mitiche figure come quella di Davide e quella di Salomone, e poi erano rapidamente declinati sino alla conquista romana come tutte le popolazioni di quella zona lì. Nella cultura ebraica la storia era invece finalizzata. Nella cultura ebraica la storia non era un cerchio, nella cultura ebraica la storia era una linea, anzi, una freccia, una linea con una direzione precisa. Il mondo era sorto dal nulla per un atto volontario e cosciente del despota del mondo, di colui che solo aveva il potere di farlo e di disfarlo, cioè di Dio, di un unico Dio. Era l'unica cultura, l'unica praticamente cultura monoteista. Il monoteismo era una bizzarria per quei tempi. Nessun popolo quasi mai. Non trovate culture monoteiste, sono rarissime. Trovate culture e religioni atee, ogni tanto. Religioni che non prevedono l'esistenza di Dio. La più famosa di tutte, se conoscete, è il buddismo. È una bellissima religione, una religione interessante perché non prevede che ci sia Dio, prevede che ci sia il mondo, che ci sia l'universo, che ci sia, ma non c'è nessuna finalità del cosmo. Il cosmo non ha un inizio e una fine nel pensiero buddista, un inizio e una fine ce l'hanno i singoli esseri umani perché nascono e muoiono. Ora noi nella nostra mente bacata di occidentali e post-cristiani riteniamo o riterremmo tutto sommato sensato o addirittura anche, come dire, quasi scontato questa immagine, questo tipo di diciamo, questo tipo di concezione del tempo finalizzata. C'è una creazione del mondo e poi c'è una fine del mondo. Nella fine del mondo, come è descritta nell'ultimo testo del Nuovo Testamento, che è l'Apocalisse di Giovanni, che non sappiamo se sia lo stesso Giovanni che ha scritto il Vangelo o un altro Giovanni, gli studiosi sono discordi su questo. Io tendo a pensare che siano diversi, io non sono uno specialista di storia biblica, ma a naso non mi pare che possano essere che possa essere lo stesso autore. Uno dice, ma sembrerebbe una cosa semplice, perché sembra semplice? Perché un esemplare, un raffrontare, un interpretare, un leggere la vita del cosmo in termini umani. Chi è che ha un inizio e una fine? Siamo noi, che nasciamo e moriamo, giusto? Uno dice, perché non potrebbe essere naturale pensare che il cosmo sia fatto come noi, che l'universo sia fatto come noi, che ha una fine, che ha avuto un inizio e che avrà una fine. In realtà nelle concezioni filosofiche, da quando verso il VII, VI secolo in Grecia si sviluppò questa cosa chiamata filosofia, cioè il tentativo di fare un discorso, di fare delle ipotesi totali e globali sul mondo, l'idea della finitezza temporale dell'universo non era molto popolare. L'universo veniva concepito dalla cultura classica come infinito, non aveva avuto inizio e non avrebbe mai avuto fine da un certo punto di vista. Se ce l'aveva in altri sistemi culturali, ce l'aveva secondo quello schema circolare di cataclisma, catastrofe, grande rogo, grande fiamma purificatrice e rinascita da questo rogo purificatore. Nell'Occidente, nella cultura greca, c'erano tracce di un pensiero di questo genere, soprattutto in alcuni antichi miti, cioè in alcune scuole, in alcune sette, in alcune varianti dei culti religiosi un po' eccentriche, un po' non proprio eretiche, perché lì loro non c'era un'ortodossia, però come i culti orfici e nella elaborazione filosofica di Pitagora e della sua scuola. Ed era la dottrina della metempsicosi, cioè il fatto che l'ipotesi che le anime degli esseri, che i principi vitali degli esseri umani, potessero trasmigrare da un corpo all'altro, potessero. Questa era una specie di, vagamente, una specie di dottrina dei cicli, era simile a una dottrina dei cicli cosmici, ma nella cultura greca in quanto tale non c'è nessuna dottrina dei cicli cosmici, c'è piuttosto una ipotesi di eternità dell'universo. Adesso nuovamente noi non siamo più abituati a questa cosa perché la scienza moderna, dopo essere stata a lungo, come dire, debitrice concorde con questa idea della eternità dell'universo, invece negli ultimi 30-40 anni ha nuovamente cambiato idea e ha quindi introdotto perlomeno l'ipotesi di una origine dell'universo, il famosissimo Big Bang di cui si parla e si straparla. L'ipotesi scientifica del Big Bang, ovviamente perché tale è una teoria scientifica molto suffragata, ma ovviamente è una teoria scientifica, quindi come tale non gode di, cioè non c'è nessuno lì a vederlo questo Big Bang, quindi non, è molto probabile che le cose siano andate così. Ed è una concezione radicalissima. Il Big Bang segnerebbe non solo la nascita dell'universo materiale, ma della materia in quanto tale, dello spazio e del tempo. Lo spazio e il tempo avrebbero, e per la prima volta in un'ipotesi scientifica, hanno una origine. Cioè si dice c'è stato un evento che ha dato origine allo spazio e al tempo. Ovviamente tutti voi siete giustificati se vi chiedete, ma prima che cazzo c'era, prima del Big Bang? Ipotesi, lo scienziato vi guarda inorridite quando noi poveri cristi facciamo questa domanda. Loro dal loro punto di vista hanno ragione, però anche loro non possono fare tanti furbi, perché è comprensibile chiedersi, vale, ok, ma va bene, ma prima, e allora vi dice lo scienziato, non ha senso, non ha proprio senso porsi neanche il problema del prima del Big Bang. Che cosa vuol dire prima? Non ha torto naturalmente lo scienziato. Se il tempo nasce all'istante t con zero, titolo di una famosa raccolta dei racconti di Calvino, se li volete leggere vi divertirete, se il tempo nasce all'istante t con zero, prima di t con zero non c'è il tempo, quindi non abbiamo il tempo di chiedersi se c'era il tempo. Non c'è né tempo né spazio di chiedersi dove stavano il tempo e lo spazio. Però alla nostra mente continuista, alla nostra mente abituata alle continuità, è abituata da sempre a considerare i tagli, cioè le discontinuità, come qualcosa di sospetto, la nostra mente continua ad essere lievemente disturbata da questa idea che ci sia un istante, che ci sia una semiretta senza la corrispondente semiretta dall'altra parte, cazzo. Che la retta non sia infinita da tutti e due i punti. Ci dà un po' fastidio. Però lo scienziato ci dice che le cose sono andate così, adesso non abbiamo neanche il tempo e la voglia di... Comunque, quello che voglio dirvi però è che noi sbaglieremmo se pensassimo che concepire l'universo sul modello della vita umana sia così naturale. Erano bizzarri gli ebrei che pensavano così, non gli altri che la pensavano diversamente. L'esperienza dell'uomo è un'esperienza ovviamente di finitezza, di finitudine, siamo esseri finiti, per quanto molto presuntuoso, quindi ogni tanto aspiriamo anche ad essere infiniti, ma ci pensiamo un po', dopodiché sappiamo che siamo nati e dovremo morire. E quindi sappiamo che... Però la nostra esperienza è fatta di... Quando noi nasciamo ci sono già degli altri esseri umani e quando moriamo ce n'è altrettanti e molti altri ne sono nati. Si sono presentati alla ribalta, sono andati a fare il Grande Fratello nel momento della nostra vita, nel periodo in cui noi viviamo. Quindi la nostra esperienza ci suggerirebbe prevalentemente l'idea di una continuità, di qualche cosa che c'era prima di noi e che ci sarà dopo di noi. È vero che gli esseri viventi nascono e muoiono, ma in qualche maniera ci pare che la vita sia eterna, e se non la vita, l'universo sia eterno, il mondo sia eterno. Ciò che c'è fuori, di noi, e che c'era prima di noi e che ci sarà dopo di noi. Il fatto poi di vivere, e pare che l'universo sia fatto tutto così, no, certamente ci sono anche le supernove o le stelle di quasar o le stelle di pulsar, però è obiettivamente difficile immaginarsi delle forme di vita che vivano, non dico come la nostra, anche molto diverse dalla nostra, ma che siano in grado di vivere a una temperatura di 10.000 gradi centigradi e a una pressione di alcuni milioni di kilobar. A occhio e croce è difficilino, se ci sono delle robe, anche forme di vita diverse dalle nostre, è più probabile che stiano su oggetti celesti più o meno vagamente solidi o con un po' di solido e un po' di liquido, no? A condizioni di temperatura anche molto diverse dalle nostre, ma non così estreme. Allora, diciamo che è molto probabile che sicuramente la nostra diciamo la vita della Terra e probabilmente anche altre forme di vita, se ci fossero in altre zone dell'universo, sarebbero sempre concentrate su corpi celesti, i quali girano intorno a qualche corpo celeste. Ora, questa cosa crea questo semplice fatto meccanico, è un fatto come meccanico, non c'è nulla di sconvolgente, però crea nell'esperienza delle forme di vita, crea spontaneamente l'esperienza di un ciclo. Le stagioni cambiano. C'è un periodo in cui è più freddo, uno in cui è più caldo. Potrebbe essere che l'asse di questo ipotetico pianeta non fosse così inclinato come è l'asse terrestre sul piano dell'orbita terrestre, cioè dell'eclittica. Però insomma, se anche fosse un pianeta l'altro, così, insomma, sarebbero cose un po' diverse, però sempre un ciclo ci sarebbe il ripetersi di condizioni uguali dopo un certo periodo di tempo. Quindi è molto più naturale, oltre che secondo me anche fisiologicamente, cioè è più sano, insomma, è più sano una concezione circolare e ciclica del tempo che non una concezione lineare. Una concezione lineare è il frutto, o perlomeno può essere il frutto, una delle ipotesi, è che sia il frutto di uno smisurato antropocentrismo. Antropocentrismo, cioè una la convinzione che gli esseri umani non siano una tra le tante forme di vita esistenti su questo pianeta, ma che siano un evento eccezionale e in qualche modo siano l'evento o la presenza che dà un particolare significato a questa Terra. Che questa fosse l'idea della cultura che generò questa concezione del tempo, cioè della cultura ebraica, è accertato dalle prime righe del Genesi, del racconto della storia del mondo mitico che questi si fecero e che loro chiamano Torah e che noi chiamiamo Bibbia, e che essendo noi cristiani, nel senso di nati in una cultura cristiana, essendo noi gli eredi di una particolare trasformazione della cultura ebraica, ibridata con il neoplatonismo e chiamata cristianesimo. Nelle prime pagine del Genesi noi sappiamo il racconto che ci viene fatto della creazione del mondo è di questo essere divino chiamato Geova, il quale prende questo mucchietto di fango, gli soffia la vita con un soffio, la storia del soffio è tipica anche di molta altra cultura greca dell'epoca, eccetera. E poi prende questo essere, gli dà un nome, lo chiama Adamo dopo un po'. All'inizio non è ben chiaro se lo chiama o no, perché gli assegna, come forse vi ho detto l'altra volta, non me lo ricordo, se ve l'ho detto va bene, se no ve lo ripeto, gli assegna questo compito di dare i nomi alle cose. Quindi è chiaro che nel Genesi l'essere umano è un essere particolarmente, è l'essere prediletto, è quello che prima Dio fa tutti gli altri li fa in serie, gli altri li fa in modo industriale, tutte le altre specie animali, montagne, fiumi, foreste, monti, mondo, pesci, rettili, uccelli, schifezze, la cacca, tutto il resto, come Dio di Altan. Cioè, se vi capita di trovare un fumetto di Altan, si chiama Trino, è meraviglioso, c'è tutta la storia di Dio, in senso gnostico però, perché c'è questo Dio, sarebbe il Demiurgo, che ubbidisce a Dio e crea il mondo, da pisciarsi dal ridere, perché è bellissimo, perché prima crea la cacca, perché ha le mosche, però è come fa Altan, cioè sapete, se non conoscete Altan, mi dispiace per voi, dovreste conoscerlo, perché è uno dei più bravi disegnatori dell'Italia, della seconda metà del XX secolo. Quindi è chiaro che cioè, questa idea che il mondo sia fatto come la vita degli esseri umani è un'idea terribilmente antropocentrica, cioè è un tratto veramente terribilmente presuntuoso, quello di credere che tutta la vita dell'universo sia, siccome noi nasciamo e ci muoviamo, allora anche il mondo deve essere fatto così, anche il mondo è nato e anche il mondo morirà. Ora, questa è una cesura epistemologica. Quindi il cristianesimo effettivamente effettivamente stabilisce una fortissima discontinuità, perché mette insieme questa concezione lineare del tempo con la caratteristica fondamentale del platonismo. Qual è la caratteristica del neoplatonismo, insomma, di Plotino, che anche nel nome è un piccolo Platone, ovviamente è un neoplatonico, ma è, insomma, un sistema così per caso. Allora, qual era la caratteristica fondamentale della filosofia di Platone e dei suoi eredi? Quella di essere una filosofia radicalmente, costitutivamente, estremisticamente e oltranzisticamente dualista. Platone è un oltranzista del dualismo, cioè proprio l'idea che l'anima e il corpo abbiano dei legami a lui non lo sfiora neanche. Il corpo è una cosa e l'anima è un'altra. È il mito dell'auriga che lui racconta nel Fedro, è l'uomo, è l'uomo, tutti gli esseri sono delle bighe, dei carri trascinati da due cavalli alati. Gli dèi, gli spiriti hanno due cavalli bianchi, tutti e due buoni, bianchi, puri, e quindi vanno in alto, vanno su, si posano sulla sommità del cielo, contemplano la verità, vedono tutto e sono gli esseri perfetti. Gli esseri umani invece hanno un cavallo bianco, bontà sua che ci ha assegnato un cavallo bianco, buono e perfetto, e uno nero, stronzo nero, non voglio dire. Un stronzo e malmostoso, il quale tenta sempre di portarci giù mentre quello bianco ci vuole portare su. E questa è la ragione per la quale intanto fanno casino sti cazzo di carri qua, quindi si scontrano i cavalli tra loro, non lo dico io, lo dice Platone nel Fedro, e quindi si imberinano le ali, tutte le prime della terra, e quindi a volte capita che uno di questi cavalli addirittura non possa più volare. Sei fottuto. 1997, fuga da New York, cadi dentro la New York di Carpenter, cioè sulla Terra, sul pianeta Terra, non ti puoi più, diciamo, rialzare, diventi un poveraccio fottuto, insomma, uno come stare in un CPT, insomma, di Lampedusa, che non esce più. E quelli un po' meno cose riescono, un pochino, si tirano un po' più su, e allora gli uomini godono per un cazzo, sono soggetti a questa terribile legge, no, insomma, voi capite cosa vuol dire questo, cioè è una cosa insopportabile, cioè, che non, tutto quello che ha a che fare col corpo, con la carne, eccetera, è una merda, no? Una schifezza, una cosa, tutto, cioè quello invece che, tutto ciò che c'è di più nobile, però è di una natura diversa, sono due cavalli diversi, non sono lo stesso cavallo, non sono funzioni diverse dello stesso, no, siamo proprio, abbiamo dentro di noi, convivono due diverse nature. Attenzione, nella Bibbia, se voi leggete la Bibbia, questa cultura, questa ipotesi non è così chiara. La Bibbia non parla quasi mai di anima. La Bibbia, la cultura ebraica era molto meno dualista di quella platonica. Anche la storia dell'inferno, sì, certo, c'erano gli angeli, c'erano le cose, però se voi pensate all'episodio di Gomorra, di Sodoma, no, non di Gomorra, Gomorra è quello italiano, all'episodio biblico di Sodoma, c'è una roba strana, perché sono dei conti che non tornano. Gli abitanti di Sodoma, Dio, perché loro sono terribili, sono cattivissimi, fanno un sacco di schifezze, si masturbano e sono anche bisessuali, cosa che Dio non può mai tollerare. Per cui gli manda gli angeli, gli manda i duali dall'unico uomo buono e giusto di Sodoma, che è Lot. E questi vanno a casa di Lot. Passando per le strade, gli abitanti di Sodoma li vedono e se li vorrebbero inchiappettare subito, appena li vedono, gli angeli, come sono carini questi angeli, Dopodiché Lot, diciamo, li salva nel modo che vi ho detto, insomma, un modo che per un padre è un po' però, cazzo, gli offre le figlie alla folla inferocita che vorrebbe scoparsi gli angeli, no, scopatevi le mie figlie, che è meglio, perché vuole salvare i messaggeri di Dio. Ma, cazzo, sono spiriti, sti angeli o che cosa diavolo sono? Se Lot o Lot è un cretino completo e Geova è un po' stronzo perché non gli dice guarda che non corrono nessun pericolo, sono puri spiriti, come cazzo vuoi che si possa inculare un puro spirito, cioè non esiste, cioè no. No, Lot è convintissimo che i due angeli corrano un rischio. È talmente convinto che fa una cosa che insomma non penso che nessun padre farebbe a cuore leggero se non fosse minacciato di cuore leggero, dice no allora ti do le mie figlie, fatevi pure, fate un'orgia multisex con le mie figlie, vedo pure i filmini pornografici, fate tutto voi. Cioè, allora vuol dire che, questo è per dirvi, che non è così chiara questa idea, lo spirito, la cosa, chi porta nel cristianesimo il vero dualismo non è diciamo il dualismo cristiano, perché ovviamente voi sapete tutti che il cristianesimo è, come anche l'islamismo eccetera, è una religione fortemente dualista, anima e corpo sono due cose separate, sono l'anima abita nel corpo così qualche strano motivo, insomma, poi chissà cosa gli è venuto in testa a questo Geova di mettere l'anima in un posto così schifoso come il corpo, cioè poteva lasciarla libera, o se come Platone poteva lasciare tutti i cavalli bianchi invece di mettere tutti i cavalli neri, che sono, fanno veramente casino, no? Quindi questa cosa non è di origine prevalentemente diciamo ebraica, è di origine neoplatonica, è il platonismo, il neoplatonismo. Platonismo che ha a tal punto infettato la cultura occidentale, prima quella cristiana e poi ovviamente la cultura occidentale, che addirittura filosofi successivi che si consideravano materialisti, come Cartesio, in realtà erano a modo loro anch'essi dualisti. E quindi Cartesio ha elaborato una filosofia apparentemente materialistica finché si parlava della materia, dice la res extensa, le cose che si estendono, ma poi c'è la res cogitans, che è una essenza e una natura diversa dall'altra. Tutto questo voi lo vedete benissimo, diciamo, l'essenza del cristianesimo, titolo del libro di un hegeliano di sinistra, chiamato Feuerbach, l'essenza del diciamo cristianesimo consiste quindi nell'incontro tra neoplatonismo e l'ebraismo, e queste cose voi le trovate esposte principalmente non in tutti e quattro i Vangeli, ma solo in uno dei quattro Vangeli, che è quello di Giovanni. Gli altri tre sono opera di tre semplici, simpatici, anche a volte anche vivaci narratori, ma insomma di non grande cultura, mentre il quarto Vangelo, che è quello di Giovanni, denota una qualche familiarità esattamente con le filosofie neoplatoniche dell'epoca ed è noto soprattutto per una concezione molto alta e anche molto interessante del linguaggio, perché essa inizia, come tutti sapete, con le parole latine: in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum erat Deum, in principio era il verbo, in greco in realtà è il testo originale, insomma. Il Dio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e poi a un certo punto, quando parla successivamente dell'incarnazione, et verbum caro factum est, e il verbo divenne carne, il verbo diventò carne. Però voi capite che è interessante che Giovanni abbia identificato l'anima con la parola, quindi con il linguaggio. Però dice che il linguaggio è una sorta di dono divino che è stato sovrapposto alla carne. In maniera un po' caricaturale, William Burroughs nel XX secolo ha avanzato un'ipotesi analoga, e cioè che, si tratta di una metafora naturalmente, ma e cioè che il linguaggio non sia frutto della spontanea evoluzione della specie, ma sia frutto di un virus spaziale venuto dallo spazio che ha invaso gli esseri umani, e la cantante e performer Laurie Anderson negli anni 80 ne fece una canzoncina, un bel pezzo musicale chiamato Language is a Virus, appunto, che cita esattamente questa idea di Burroughs. La teoria di Burroughs è interessante per altri motivi e ne parleremo dopo, ne parleremo poi. E comunque non è così dualista la teoria di Burroughs come Burroughs non parla mai né di anima né di, parla di funzione. Cioè. L'altro grande testo in cui questa saldatura, quindi il Vangelo di Giovanni è il testo nel quale vengono poste le premesse per questa saldatura di queste due, di questi due cataclismi della storia, che sono il neoplatonismo e l'ebraismo, da quel punto di vista lì. Ma l'altro grande testo sono le lettere di San Paolo. In realtà è San Paolo il vero fondatore del cristianesimo, non certo Gesù Cristo, che era sicuramente una persona anche simpatica, camminava sulle acque, faceva qualcosa del genere, era un interessante profeta, ma non si sarebbe mai sognato Gesù Cristo di fondare una religione. Gesù Cristo credo che sia nato e morto ebreo dal punto di vista culturale, non voleva affatto fondare nessuna nuova, diciamo, religione, la sua, almeno da quello che appare nei tre Vangeli sinottici, perché le affermazioni un po' più oltranziste le fanno al quarto, Giovanni era un platonico, quindi era, si montava di più la testa. San Paolo non ne parliamo. San Paolo è con l'ardore dei, diciamo, neofiti, San Paolo, voi sapete, persecutore dei cristiani in gioventù, poi colpito dal fulmine sulla via di Damasco e convertito. I convertiti sono sempre peggiori, perché capitava anche nel Partito Comunista o in altri partiti del genere, e anche adesso, se vedete, ci sono i peggiori berlusconiani, sono quelli che vengono da tanto bombi. Insomma, per non parlare di altri, o di quella metà dei giornalisti di Mediaset che nel 68 facevano gli studenti ribelli e mo sono approdati a quelle rive, sempre peggiori. E allora, quindi, San Paolo con questo fuoco, con questo oltranzismo, è quello che nelle sue, diciamo, lettere, questa saldatura tra questa idea della finalità della storia, quindi la prima filosofia della storia, ben prima del marxismo, ben prima dell'hegelismo e del marxismo, è stata ed è il cristianesimo. Quindi a me mi hanno sempre fatto ridere le critiche che il pensiero cattolico rivolgeva al marxismo. Diciamo, hai fatto una filosofia della storia. E voi, brutti stronzi, avete voi prima di noi, che cazzo volete? Cioè, si dovrebbe proprio la storia. Sbagliatina, adesso non voglio dire che sia la cosa migliore che c'era nel marxismo, diciamo pure che è una roba da buttare via del marxismo. Io sono maturato, non ne voglio più di filosofia della storia, perché hanno fatto troppi danni. Però la prima cazzo è stata la loro, non quella che abbiamo fatto noi. E va bene, dopodiché viene un lungo periodo di egemonia culturale del cristianesimo, che non è un periodo così brutto come dicono nei libri di storia, ed è anche un po' più complesso, ma che comunque sia è obiettivamente il periodo in cui dal punto di vista culturale succede pochino. Cioè, San Tommaso è interessante, sì, insomma, Tomoni così, poi non è che sia la cosa, insomma, e si chiama Medioevo. In cui ci sono dei movimenti sociali ovviamente interessanti, ovviamente c'è, e essendo il cristianesimo per tutto il Medioevo una sorta di pensiero unico, tipo quello che si avvierebbe a diventare il berlusconismo in Italia, in grosso modo, sono diverse, evidentemente, insomma. Allora è chiaro che anche tutte le tensioni sociali che indubbiamente c'erano, perché il cristianesimo non ha mai neanche preteso che le tensioni sociali venissero meno, insomma. Il pensiero liberale, sì. Per non parlare del pensiero della destra, il pensiero liberale sogna che non ci siano conflitti. La destra sogna che ci siano, e di mazzolare tutti quelli che hanno un reddito inferiore ai 100.000 euro, e invece noi vorremmo che il conflitto fosse veramente la molla, come è, come è sempre stato, come praticamente è stato, fosse la molla della presa di coscienza. Senza conflitto non si può stare. Conflitto non vuol dire guerra, distruzione, calamità, ma vuol dire che chi non ha la parola cerca di prenderla, questo vuol dire, e cerca di costruire le condizioni per evitare di essere mazzolato da quelli che invece vorrebbero mazzolare, questo vuol dire conflitto, tutto lì. Non è tanto. Allora, quindi dentro il cristianesimo, se voi leggete Il nome della rosa di Eco ha raccontato benissimo come all'interno del cristianesimo medievale ci fossero, passassero all'interno del quadro di questo pensiero, generale, passassero anche poi le cose che avrebbero dato origine a dei tentativi di fuoriuscita dal cristianesimo dopo il Medioevo. In realtà l'Occidente non è ancora nato qua, questa è la preistoria dell'Occidente, certamente. Nel terzo secolo, nel quarto secolo d.C., Teodosio ha diviso l'impero romano in due parti, quello di Oriente e quello di Occidente. Il nome è cominciato a nascere lì. Certamente l'impero romano d'Oriente è caduto, mentre l'impero romano d'Occidente è caduto 476 d.C., mentre quello di Oriente è sopravvissuto per più di 1000 anni, perché Costantinopoli, ex Bisanzio, è caduta nel 1490 e rotti, insomma, intorno, più o meno lo stesso anno addirittura della scoperta dell'America, nel 92. E quindi è chiaro che questa separazione comincia a creare le condizioni, ma l'Occidente, nel senso del pensiero occidentale, ancora nel Medioevo non è nato, perché il collante, ideale, se non ideologico, di quella società, cioè il cristianesimo, è un pensiero universalista, ed è universalista senza neanche la coscienza di esserlo, ma come ogni pensiero universalista è tale, non è mai cosciente di essere universalista, cioè dipende da che cosa intendiamo per universalismo. Ovviamente adesso io vi do la definizione di universalismo di un anti-universalista, quindi voi dovete giustamente pensare che sia viziata da un mio preconcetto, però insomma. Se però per universalismo intendiamo l'arbitraria elevazione dei tratti particolari, dei tratti definitori di una cultura a attributi di una natura umana comune a tutta l'umanità, è evidente che l'universalista non saprà mai di essere universalista, cioè non sarà cosciente di fare questa operazione truffaldina, cioè di prendere i valori della sua cultura e di cambiarli e di trasformarli in valori cosiddetti universali. Ma tutti voi sapete che l'uomo occidentale fa esattamente questo, e lo fa perché è erede del cristianesimo. Tutti, certamente, i nativi americani del Nord America e le grandi civiltà del centro e del Sud America sono state massacrate per interessi di anche di fatto, per una grossa componente di tipo economico, ma la giustificazione era il cristianesimo, perché il cristianesimo era, essendo il rappresentante, il grande dibattito, questi li hanno lasciati tranquilli, questi poveri cristi di indigeni, di, nativi, finché finché c'erano dei dubbi addirittura che avessero un'anima, come le donne, che sapete che nel Cristianesimo è stato un grandissimo dibattito se le donne avessero o no un'anima. Tutto sommato è quasi meglio sotto il Cristianesimo non averla l'anima piuttosto che averla. E sì, perché almeno ti lascia di dire, vabbè, un cazzo tuoi, sei uno senza anima, però ti lasciamo sopravvivere. Ma una volta che abbiamo scoperto che tu c'hai un'anima, se c'hai un'anima sei fottuto, figlio mio, perché è certo, perché se c'hai un'anima e non sei, cristiano, o con le buone o con le cattive, o ti converti o ti sternino. Perché? Come? Hai un'anima e non vuoi che la tua anima aderisca all'unica vera verità che c'è nel mondo, che è quella del cristianesimo. Ma come ti permetti? Come ti permetti di dubitare che tu vuoi impedire alla tua anima, il principio della tua anima immortale, di godere dei grandi benefici dell'adesione a sta cazzo di religione portoghese, eccetera? No, ti converti? No, e allora muori, e allora ti ammazzo, perché non è giusto che tu, con la tua vita essere spregevole, impedisci alla tua anima di godere di questa grande cosa. Una volta scoperto che gli indigeni avevano un'anima, diciamo, li si è potuti sterminare a cuor leggero. Poi certamente non è che, voglio dire, allora questa c'è un po' di retorica dire che il mercante da un lato e il sacerdote, che il soldato da un lato e il sacerdote dall'altro erano i due avamposti che in realtà coprivano la terza figura molto più importante, quella del mercante o del capitalista, diremmo noi, in termini un po' più precisi, il quale prendeva possesso poi, è vero, un po' questo, cioè, allora, è vero che è un po' retorico, è vero che il capitalista un sacco di volte si è fatto avanti direttamente senza bisogno della mediazione del prete o del soldato, quasi mai, perché sennò faceva il soldato lui stesso, faceva il capitalista soldato, tutta la storia della epica conquista del West negli Stati Uniti è insomma questa, no? Cioè avanzi di galera, forse come quelli fra l'altro che avevano fondato l'America, perché erano in gran parte gente fuggita o deportata dalle galere, quelli che fondarono l'Australia, ma non perché, non ho la minima, anzi spesso i carcerati sono paradossalmente migliori di quelli che li mettono in galera, in tanti casi, non è voglio di questo, però insomma, cioè, i padri, come dire, fondatori erano membri di una setta di rompicoglioni tali che pure neanche gli olandesi li volevano, che sono i più tolleranti d'Europa, tollererebbero, hanno anche tollerato Loretta per 6 mesi, gli olandesi, quindi. Però niente, questi qui no, li mandiamo via, questi sono andati in America, ma insomma erano veramente una serie di scassacazzi che voi non vi immaginate chi erano i comitati, e si vede infatti poi in tutte le chiese a cui hanno dato origine, ma poi dopo sono arrivati l'ira di Dio, insomma. Però dietro c'era questa cosa. Ora, quando alla fine del Medioevo l'insieme dei cambiamenti economici e culturali, io non vi propongo nessuna spiegazione della nascita della modernità nei termini del marxismo volgare o economicista, non c'è stata solo la componente economica che ha avuto, c'è stata l'invento della stampa, c'è stata l'aumento, c'è stato in generale il salto tecnologico, l'enorme rinnovamento di tecnologie che si conosce insomma nell'Occidente alla fine del XIV secolo, del XV secolo, che crea le condizioni. Comunque quando nasce questa famosa epoca moderna, la modernità, dalla quale forse siamo usciti e forse no, o forse stiamo uscendo, o forse ne usciremo, o forse la stiamo semplicemente cambiando un pochino, facendole un po' di restyling senza che sia davvero diversa, ma comunque questo non lo sappiamo bene. La modernità è insieme erede del cristianesimo e innovatrice nei confronti del cristianesimo, ma sicuramente una cosa eredita dal cristianesimo, la modernità, e cioè la sua vocazione universalista. La modernità è universalista tanto quanto il cristianesimo, e l'ipostasi, cioè la confusione tra dei tratti storicamente determinati dei comportamenti umani e la loro trasformazione in tratti permanenti degli esseri umani. Questa è una tentazione che gran parte delle culture hanno, anche le culture che noi giudicheremmo meno sviluppate, le culture dei popoli orali, le culture studiate dagli etnografi, dagli etnologi nell'Ottocento e nel Novecento. Qualunque, anche le culture separate degli indios dell'Amazzonia considerano se stessi uomini e la tribù vicina, che semplicemente magari porta un coprepene un po' più lungo, un po' più corto del loro, o un ciuffetto blu invece che rosso sulla testa, dice loro questi non sono, cioè l'unica vera cultura è la nostra. Da un certo punto di vista, come dire, è tipico di ogni, diciamo, cultura quella di considerare se stessa come l'unica cultura valida o di identificarsi con la condizione umana. Però i contatti tra la cultura occidentale e queste culture hanno dimostrato che molto spesso i portatori delle culture tradizionali non hanno difficoltà, una volta che entrano in contatto con culture diverse e in condizioni diverse, per esempio nel corso di grandi migrazioni, ad aprirsi, cioè a capire rapidamente che anche la loro cultura è storicamente relativa e che ce ne sono altre, e a mescolarla, a prendere i pezzi e a comporre un mosaico diverso, come è il modo che le culture sono nate così, con buona parte di bossi di quelli della Lega. Non ci sono le culture originali, la cultura, ma che cazzo, la cultura sarà nata in un certo modo, e come è nata? Dalla mescolanza di comportamenti di persone diverse o di pezzi di culture preesistenti che si sono. Il cristianesimo è nato così, cioè tutte le grandi cose, nel grande come nel piccolo, cioè non ho... E poi però una volta stabilizzata un minimo, quella cultura sembra che ci sia sempre. Ah, questa è la cultura tradizionale, ma che cazzo è? Dove sta la cultura tradizionale? La cultura tradizionale 50 anni fa, un secolo fa, due secoli fa, non era quella, era un'altra. È nata, quella che tu chiami cultura tradizionale, è nata, è il risultato di uno sviluppo. Quindi, ora, il pensiero moderno è stato a lungo molto più culturalmente imperialistico di ogni altra cultura, cioè ha teso costantemente a trasformare i tratti della propria, diciamo, i tratti che gli sono caratteristici, e quindi per esempio l'importanza della tecnologia, un certo modo di far funzionare l'economia, una certa concezione anche un po' astratta della democrazia e dei diritti, come se fossero o dei tratti, come dire, immutabili della natura umana, o come se fossero, peggio ancora, il risultato di una evoluzione a cui tutte le culture dovevano tendere. Quando l'etnografia comincia a muovere i primi passi alla metà del Settecento, anche i più, virgolette, amanti delle culture altre, quelli che le descrivono anche nel modo più partecipato, però dicevano questo, cioè, è interessantissimo. Prima di Lévi-Strauss, anche con Malinowski negli anni 20 aveva questa, negli anni 20 del Novecento aveva questa, come dire, concezione. È importante studiare le culture primitive, cosiddette, perché le culture primitive rappresentano solo la nostra infanzia. Noi tanto tempo fa eravamo come loro, e quindi anche loro a poco diventeranno come noi. Vedete che sta cazzo di freccia della Bibbia continua a fare i suoi danni, non soltanto l'universo, ma anche le culture sono fatte così. Qu- queste sono le culture primitive e questa è la cultura occidentale. La cultura occidentale sarà il punto di arrivo. Prima o poi tutti arriveranno così, perché da noi si mangia meglio, ci sono più cose da mangiare, ci sono le automobili, ma non c'erano gli alimenti, ma insomma, abbiamo tutta una serie di cose per cui il modello è che siamo tolleranti verso i gruppi, certo, non li massacriamo più, anzi mi dispiace, facciamo autocritica di aver massacrato tutti questi indiani e questi pelli rossa nel diciannovesimo, fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Avremmo dovuto pensarci un po' di più e non essere così invadenti e così frettolosi, però è stato un modo un po' sbagliato per accelerare il loro naturale cammino verso il radioso futuro dell'uomo occidentale. L'uomo può essere solo occidentale, l'uomo può essere solo moderno, l'uomo può essere, questo è ciò che l'uomo o è già spontaneamente o che deve diventare. Questo è il pericolo più forte che noi abbiamo, più grosso, perché è al lavoro, è stato al lavoro anche dentro le culture che nel corso dell'Ottocento e del Novecento hanno cercato di combattere politicamente, socialmente e culturalmente la cultura e il sistema economico dominante, cioè il capitalismo, anche dentro il movimento operaio. C'è stata questa, il marxismo o i marxismi, cioè non tanto Marx, che aveva ovviamente le sue colpe, le sue responsabilità, ma non così gravi come i suoi continuatori, ma sia la tradizione socialdemocratica che quella comunista del marxismo sono state culture che hanno sposato esattamente quel punto di vista. Erano universaliste in maniera specularmente opposta, certo, rispetto al pensiero liberale borghese, ma erano anch'esse universaliste, cioè tentavano l'idea, cioè tentavano di costruire un mondo migliore, sempre però guidate dall'idea che ci fosse una natura umana, e il capitalismo veniva criticato non perché era oppressivo e totalitario e tentava di imporre i tratti di una inesistente natura umana a gente diversissima tra loro, ma perché sbagliavano nel descrivere la natura umana. No, la natura umana è diversa, dice il marxista, non Marx, dice spesso. Quindi anche voi pensate quanto è forte questo equivoco e questa malattia di considerare, di non valutare, di non valorizzare la differenza, l'irriducibilità, la ricchezza della potenza, cioè della potenzialità, dell'insieme di ricchezza, di ricchezze possibili, di comportamenti possibili che gli esseri umani hanno, invece di valorizzare la diversità, la differenza, invece di essere felici e di fare dei balletti e delle danze per il proliferare dei modelli di sessualità differenti, li si vuole ridurre tutti entro gli schemi, l'eterosessualità maschile, femminile, eccetera. La valorità è una malattia, ci dice sto branco di disgraziati, ma dove è una malattia? Ma dove? L'omosessualità è uno fra i tanti modi di affermare la propria libertà di scelta, di dire l'essere umano fa del sesso determinato biologicamente, ma lo carica di una serie di altre cose. Su tutte queste altre cose uno ha la libertà di scegliere e può concretamente scegliere altri modelli, altre cose. No, la proprietà è una malattia. Nell'Unione Sovietica si mettevano in carcere i dissidenti politici dicendo che erano malati di mente, si mettevano nei manicomi, la polizia segreta stalinista, staliniana, metteva la gente, perché? Perché vedete, anche tutta questa cosa è l'identificazione del dissenso, e il dissenso è sempre una messa in primo piano, è una dimostrazione della ricchezza del genere umano, ma no, la ricchezza deve essere mortificata, bisogna eliminare e colpire, uccidere le differenze, perché è solo su questa base che può conservarsi il potere di chi ce l'ha, cioè di fatto capitalisti maschi, femmine ce n'è, ma sono una eccezione, comunque anche la Marcigaglia la mettiamo dentro perché non è che perché è donna la salviamo, ma questa è la cosa, no? Allora, credo che questa, se alla fine del corso saremo, non dico d'accordo, ma saremo in grado di discutere su questo punto, cioè sulla relazione che c'è tra costruzione di una autorappresentazione della società e, diciamo, ideologia della cosiddetta natura umana, io credo che già avremmo fatto un bel passo avanti. Naturalmente vi dico, è difficilissimo perché dentro ognuno di noi, compreso dentro di me, è sempre al lavoro la tentazione universalista. Allora, vi ho detto quando è che non ci vediamo? Sì?